Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Pillole di consapevolezza. Impariamo a volerci bene su Radio Big World. Io sono Francesca e faccio parte, insieme a Franco ed Elisa, dell'associazione Energicamente che, come ormai sapete, ha sede sia a Firenze che a Roma. Ci occupiamo di benessere a 360 gradi. Nell'ambito delle nostre competenze forniamo trattamenti Reiki, di riflessologia plantare, consulenze in tema di fiori di Bach, counseling cognitivo-relazionale e molti altri che vi invitiamo a venire a provare presso le nostre sedi. Ma ci occupiamo anche di alimentazione, di salute e quindi di fornire alcuni consigli utili per il nostro benessere anche in questo campo. Oggi, ad esempio, andremo ad esaminare la stretta correlazione sussistente fra alcuni disturbi psicofisici ed alimentazione squilibrata. Ansia, stress, nervosismo, stanchezza mentale talvolta possono essere provocati da un'alimentazione squilibrata che crea una sensazione di pesantezza alla testa. Come infatti hanno dimostrato molte ricerche, esiste uno stretto legame tra cervello ed apparato gastrointestinale. Tramite vie nervose ed ormoni, essi si influenzano infatti a vicenda. Non a caso l'intestino è anche definito cervello enterico o più comunemente secondo cervello, dal momento che presenta una struttura nervosa straordinariamente complessa con, pensate, oltre 100 milioni di neuroni. Ecco perché alcune emozioni e sensazioni profonde possono provocarci effetti come mal di pancia, come dolori, contrazioni o disordini intestinali. Da qui emerge ovviamente l'importanza di una buona alimentazione, che costituisce uno dei primi pilastri, insieme all'esercizio fisico e a metodi naturali che facilitano il rilassamento come la pratica meditativa, per allontanare stress e stati di affaticamento. Come ben si sa, ci sono alcuni cibi che possono risultare più salutari rispetto ad altri, in quanto contengono maggiori proprietà nutrizionali che possono aiutarci a promuovere il benessere integrale. Capire quali sono questi alimenti amici della salute è quindi fondamentale per migliorare la qualità di vita ad ogni fascia d'età e in particolare iniziare i bambini ad uno stile nutrizionale genuino e sano è particolarmente importante per prevenire disturbi alimentari e sovrappeso. Quest'ultima condizione infatti è particolarmente preoccupante poiché l'Italia è ai primi posti in Europa per il numero di bimbi in sovrappeso e in tutto il vecchio continente, pensate, tale problema in età scolare cresce al ritmo di circa 400.000 casi l'anno. Quindi, genitori che scelgono con oculatezza una dieta consapevolmente salutare non possono far altro che trasmettere ai figli in modo spontaneo un'appropriata educazione alimentare. Questo non significa ovviamente privarsi del piacere del buon cibo, bensì nutrirsi con saggezza. Per dirla insieme alla Roche School, mangiare è una necessità, ma mangiare intelligentemente è un'arte. Per iniziare bene la giornata, possiamo provare a seguire questi semplici consigli. Molti problemi legati alla stanchezza mentale e a carenze energetiche derivano da una errata o addirittura del tutto assente prima colazione. Tante persone per la fretta infatti si limitano a prendere e ad assumere un caffè espresso e un croissant, niente di più sbagliato. Invece fondamentale è iniziare la giornata nutrendosi bene senza appesantirsi troppo. Non può esistere ovviamente un consiglio adatto a tutti perché ognuno ha un proprio metabolismo, ma ci sono delle indicazioni di base che possono andare bene, per esempio per chi lavora sia in ufficio, per chi studia o per chi è spesso fuori casa. Cereali, pane tostato, fette biscottate, muesli, marmellata, miele, sono questi gli elementi di una buona dieta mattutina. Secondo i propri gusti e le proprie esigenze, si può scegliere infatti fra un'ampia varietà di questi alimenti, dall'avena in fiocchi, oppure a fiocchi di riso e mais, al pane integrale, al kamut, fino ad arrivare persino ai cereali senza glutine. Un'aggiunta in più può poi essere rappresentata da un vasetto di yogurt o da una spremuta d'arancia o da un centrifugato di carote. Su quest'ultimo oggi vogliamo puntare la nostra attenzione. Il succo di carota è essenziale in linea di massima, ma soprattutto da bere al mattino a colazione. Si tratta di un concentrato di vitamine, importantissimo per bambini, anziani e convalescenti, poiché contiene, la carota, vitamine B1, B2, B3, CD e soprattutto vitamina E, ed infine fibre, oligoelementi tra cui ferro, calcio, fosforo, magnesio, potassio e pigmenti antiossidanti. Inoltre, come ben si sa, è un condensato di beta-carotene, un pigmento che aiuta a sintetizzare la vitamina A, un elemento che, se introdotto in maniera ragionata nella dieta, favorisce la cura di dermatiti e aiuta anche a prevenire gli eritemi solari. In forma di centrifugato o di crudité, al vapore o lessata, la carota è quindi un'amica del nostro sistema immunitario. Inoltre fa bene alla vista, come raccontavano già le nostre nonne e bisnonne, per effetto proprio della presenza all'interno della stessa della vitamina A, indispensabile per formare quel pigmento di colore rosso di cui l'occhio stesso necessita in modo particolare per la visione notturna. Grazie poi alla presenza di fibre, la carota aiuta anche a regolare i ritmi dell'intestino. A questo punto non ci resta che fornirvi una piccolissima ricetta, una breve ricetta per elaborare e fare a casa vostra un ottimo succo di carote. Lavate 7-8 carote, mondatele, ma ricordate che anziché sbucciarle sarebbe preferibile pulirle con un apposito spazzolino per verdure, che aiuta ad eliminare i residui di terra senza però rimuovere il beta-carotene presente proprio nella parte esterna della carota. Procedete poi a risciacquarle sotto l'acqua corrente, tagliatele in piccoli pezzi ed inseriteli in una centrifuga che separerà il succo dalla parte più solida. Se utilizzate il frullatore è bene aggiungere alle carote un po' di acqua o succo di limone per facilitare la miscela degli ingredienti. Il succo frullato di carote, mi raccomando, va bevuto subito per non rischiare di disperderne le proprietà nutrizionali. Nelle prossime puntate affronteremo ulteriori argomenti che riguardano proprio l'alimentazione e la sua influenza fondamentale, pesantissima, ma se vogliamo anche bellissima, sul nostro stato di benessere generale. In modo particolare ci addentreremo nel campo dei legumi, andando ad analizzare le proprietà delle lenticchie, fornendo anche alcune ricette interessanti per elaborarle e farle presentarle sulla nostra tavola in modo intelligente ma anche sfizioso. Rimanete quindi con noi e a risentirci alla prossima puntata su Radio Big World, che ringraziamo ancora una volta per l'opportunità concessaci. Vi invitiamo quindi a visitare la pagina di Energicamente, sia la pagina Facebook sia il nostro sito www.energica-mente.it. Arrivederci e buona serata.